4F. Ascolta e rispondi. Posso aprire i pacchi? E perché no? Li apra. Posso coprire i dolci? E perché no? Li copra. Posso servire gli spaghetti? E perché no? Li serva. Potrei spedire delle email? Non c'è problema, le spedisca quando vuole. Potrei pulire le camere? Non c'è problema, le pulisca quando vuole. Potrei chiarire le mie opinioni? Non c'è problema, le chiarisca quando vuole.